Andiamo, andiamo, che te? Che? Che avanti? Pronto, pronto, c'è nessuno qui. Dalle alture di Carbonazzi chiama il più forte in Sardegna. E beh, Casarella. E beh, Brittella, com'è? Mi sono seduto sopra la fabbrica d'alluminio. Anch'io, Luca. Ero su, stavo facendo le prove dal tetto con la radio, perché volevo capire dove arrivava questo rientro di RF. Effettivamente c'era un choc un po' troppo lungo, l'ho tolto, adesso non lo fa più, perché avevo un rientro di RF, non mi ha mai dato problemi, il 440, avevo un rientro di RF sulla radio. Adesso è perfetta, sto facendo delle prove, me la sono portata su in mansarda con l'alimentatore, il cavo diretto, e non lo fa. Poi ho rimesso il cavo di discesa, c'è un choc, l'ho tolto, adesso non lo fa più. Ciao Claudio. Ciao Natale. E beh, come si va? Sa va bene, tutto gappa. Buonasera, in compagnia di chi sei che non stavo ascoltando? Di Luca Manicomio. Maico, lo senti a Natale? No, non lo sento qua. È peggio per te se non mi senti. Mi sento frusciato, non capisco quello che dici, Natale. Vieni, che ti do una X50. C'è una X50, ce la vuoi te la do. E così te la piazzi su. Sentite cosa ti ha detto Natalino. Cosa ha detto? Sì, facevi prima rispondere, cazzo. Ha detto di andare che ti dà una X50 della Diamond, come quella che ho io. E ti piazzi quella se lo senti. Martedì ci posso passare. Perché lunedì devo fare un lavoro, qua. Inteso è Natalì. Quelle sono belle, quelle antenne lì ci voglio, X50, X30. Non mettete antenne lunghe perché non servono a niente qua. Più corte sono, meglio è. Infatti, già l'ho sentito comunque. Oh, ma lo che passo dopo, di più di non naggio mitla. Vedete che vi do un'antenna di plastica. Dito in realtà lì, ciao Manuè, ha detto che parò di là non ha paravà. Però lui paravà è molto, non è vissuto mi viale Dante. Ehi, paravà, premesso non vabbè. E te c'è Natalì? Mo, dilli di bassa matti che la smonto da dov'è e gliela do. Tanto qua non riceve perché è troppo basso. Vai tranquillo Luca, ha detto Natalino di andare tranquillo. Che ce l'ha attaccata lì al coso della finestra, la smonti e te la porti via, capito mi hai? Dimmi un attaglio, ci vuole quella casarella di bulloni, perché è d'alluminio, non so, boh, piombo, se ci servi. Allora, ma ancora fumando stai Natalì? Sì, fumando, sto smettendo, sto cercando di smettere, però sono l'ombra di me stesso. Avevo la 50 di pantaloni, adesso ce l'ho la 44, fatti giù un giro di conti. Allora, Lu, sta ancora fumando, a me se fumami. E prendi un paio di pacchetti di sigarette e la chiudete così. Ma che non voglio nulla. Marlboro Sard, vedi che sia molto sicura, pure un mezza secca. Comunque passa che te la dà quell'antenna, tanto a lui non le serve. Non le serve, lui va bene così, a futtidini a talì, no, puni nuda prima che chi vecchi anni che sei attaccendo e fendi e se ti dà ancora più casino, usa il portatile che intanto ti sentono tutti a futtidini. Ciao Ginko, ispettore, come va? Vabbè qua, tutto a posto, come va? Cazzo fanno un cacchio, no, che dorra, bebù, si muri, e tu prendi di fio, comunque salutone a tutti, dai. Ciao anche a Natalino, ben sentito, vai qua. Ehi, ma sì, no, che anche i dati socialmente lo desi. Lascia perdere, è troppo un casino, vai chi. Ah, così è. Vabbè, no, io faccio una cosa e faccio l'altra. Se parlo qua, volume basso, non devo stare a ascoltare a destra e a sinistra, se no mi casino, capito? Va bene, va bene. Allora devi andare, lui, uscire devi. Come al solito, ieri sono uscito lo stesso. Sono entrato a mezzanotte, giusto così, per una birretta, dai. No, ieri stavo a giocare al pugnometro, mi sono divertito, ma avevo il braccio insaccato, avevo il braccio e il pollice. E ci è andato alle giostre, Alghero? No, un ciclo, c'è questo pugnometro. Praticamente c'è un record, 897, però non ce l'ho fatta a superarlo, 8,55 sono arrivato. Il cagnotto mio non vale, vale poco. E chi l'ha fatto il record? Non lo so, un rumeno. Se non ce lo vecchia, che c'è sta frazzi, eh. Sta a fare 8,97, mi ricordo. Alle giostre non so come arrivato più di 5 cento io. 8,97 è un buon risultato. Vuol dire che c'ha forza nelle braccia. Anche 8,55 non è male, la castagna ce l'ho, cazzo se ce l'ho. Ci poni a faccia, lo dico tipo su Mari, un bel Mari. Cazzo anche 8,50 è buono, ma io ti parlo di tanti anni fa, capito? Arrivavo a 5,60, 600, non di più. Non di più. Non li ho mai avuto io di forza a forza, di spinta delle braccia. Forza fisica sì, ma così no, capito? E poi no, non ce la faccio, c'ho le dita, cazzo, faccio l'artrite, cosa? Cazzo, si cuda un pugno, si bigiano i diritti in due. Vero, Manuè? A ciaffi, ballo su buvoci, Andare, è importante che chiudono la testa, ok? A ciaffo con i buoni, è importante che li va a andare. Allora, a ciaffi, già mi difendo. Pugni no, perché c'ho l'artrite, cazzo, non posso piegare, se piego mi si staccano le dita, cazzo. Sono tutto gonfio in questi giorni, gomiti, le dita, le ginocchia, fanno male i piedi di nuovo. Rottura di balle, cazzo, beh, proprio a me dovevi assistere una cosa del genere. Avanti, Natalì! Non ti dico tutto quello che fa male a me, e cosa tutto mi è capitato, ci sono più buona figlia. A quella antenna che avevamo usato a cosa? A scarapiccata, non ce l'hai più? Mo villaggio. In campagna ce l'ho con la base magnetica e tutto. Natalì, devi andare a prenderla quella antenna. Devi andare a prenderla. Capito? Devi andare a prenderla. Quella la metti nel davanzale della finestra, con una piastra in ferro, la base magnetica sopra e tu sei che mica con nada. Vabbè, proveremo. Natalino, o meglio mi ascolti adesso, 1, 2, 3, prova. Sì che ti ascolto. Anche io ti ascolto meglio, dai, mi sono spostato. Cazzo, ti sposti di un paio di metri, allucinante, che frequenza strana. Becco! Mia guffetta. Attenta, guffetta. Buonasera circolare a tutti. Ciao Claudio. Claudio, ti faccio trattare male. Pigliate una mazza da baseball, da reginisi. E tu io. Che peso hai qua? Ah, grazie. No, grazie. Non ho bisogno di una mazza da baseball. Mi sono abituato a pigliare fra di bella culo. E andare per Mattese. Non è detto che uno deve trattare male solo. Sto scherzando. No, c'ho un problema alle dita, non è che posso fare molta forza, capito? Sto scherzando. Già siamo in forma ancora. Cazzo, Luca è giovane, cazzo. Immaginati Luca che all'età tua, io camminavo con una gamba solo, l'altra ce l'avevo di legno e mi si è bruciata. Perché Luca mangia spinaci come braccio di ferro? No, guarda, io oggi non posso fare niente, nulla, perché... Niente, no, ho esagerato, dai. Sto a fare, 4, 5, 6, 7 tiri, dai. 2 euro, 7 tiri sono. Ma ho esagerato ieri, ho fatto il grasso e poi quindi... Devi essere anche allenato, attenzione. Certo, lui, cazzo, ma non è... Taglietto, ce l'ho fatto io una cosa del genere, mi si sfascia il braccio, ci vuole un bel di allenamento. Io sto facendo anche fisioterapia, sto facendo un po' di pesi, proprio per far sì che siano un po' più... Però mi accorgo che poi l'indomani mi fanno male le braccia, capito? Fanno male un bel le braccia perché le ossa purtroppo stanno iniziando a cedere e quindi è un casino, vabbè. E beh, Emanuele, ah, motocarro, sentito l'hai, a Kawasaki. Ma che, è veramente isso. Lui sarà in turno, sarà la roba, boh, non l'ho sentito, no. Da ieri che non l'ho sento. Ah, così è. E allora è in turno, dai, non fa niente. Avanti, Natalia, salutare a Graziano, lo senti? Già lo sento, già. Ciao Graziano, non so se mi senti tu a me. Piccolo, ti tiro fuori, basso. Ancora arrangiati l'antenna, sì. Boh, ciao, ben sentito anche a te, Natale. Guffo, a me mi senti? A te a voglia che ti sento, mi pare bussato di nuovo qui. Ma pensavo, mi se ti mettevo la portanza, ti facevo parlare con un muro. Ehi, oh, ha visto la mossa Gian Maria, le è piaciuta un bel. Pure Luca Ghito, Luca Malincomio, cos'hai? C'è quello Luca Malincomio? Luca, l'altro Luca, diciamo. Luca Fritto, la vista, grazie. Ehi, ha detto che mi chiama da oggi in Dananzi, cioè, così mi ha detto, Graziano tre ruote. Ma come non ti ha chiamato Graziano Messina? Ti ha visto una volta, l'hai piaciuto a me però. Anche a Gian Maria mi ha detto si fate un pensierino. Ma usando la sagra. E allora, anche oggi, stamattina sono andato al supermercato lì alla Montivisi a farmi un po' di spesa che mi mancava. Tre buste, a voglia, c'è anche il sottosella, il bauletto e più sulla pedana me li metto, no? C'è il gancio. Ho capito. Andava, dai, già è bellina. Ah, io non ci spenderei mai, no, boh. Ho visto uno, vabbè non voglio dire nulla, un'app 200, tre ruote, quella per lavoro, 2500 euro. Con chi siamo a viaggi, di tutto, esce la giornata, ma scusa, ma non ce l'aveva Stefano una di quelle? Ce l'ha sempre, ma che la Giulia, mica la mia, e voglio la roba mia, dove la roba Giulia? No, ma già sta lavorando con quel motocarro Stefano. Sì, già lo chiamano, noi a Puglia. Già lo chiamano, c'è i suoi clienti. Vedi, perché non ti rabbigli? Boh, ce ne sono affari di quelle. Anche da Compalorini. Lo so, ma mi sono pesanti adesso, 2500 euro, grazie. Un bel pesanti. Prima mangio di baga al dentista, da voi. Arrati di fare ratti baci, cosa di naputi, quando lo avvini, l'avvini. Ma allora nel frattempo lavori anche con quella, boh. Lo so, infatti mi sarei fatto il mio girettino di clienti. Va bene, sì. Magari capita che qualcuno va a darti una lavatrice, mi fa un prezzo buono, ma anche a 25 euro a viaggio, a voglia che te la fa la giornata. Poi i miei lavoretti e concludo bene, dai. Già le trovi di viaggetti, a voglia che innagati, cazzo. Poi se conosci gente che c'è la frutta e verdura, gli fai la proposta, tu mi dai tanto e andiamo a pigliarti la roba al mercato, all'ingrosso. E poi gliela compra, gliela carichi lì e poi gliela porti in frutta e verdura. E so sempre di là, solo chi mi tiene dei bisacchi, insomma, fa i semiaggi. Lo so. E vabbè, riprendi qua. Sì, avrai problemi ad alzarti presto proprio. Boh, non è un problema quello. Se c'è il lavoro, Luca, ia si ribeggia, Ghizzo, non ti preoccupare. Certo, se deve andare per scaldare le sedie della moto, no. Però se c'ha i suoi clienti che deve fare queste cose, ha voglia. Io c'ho un amico che lo fa per lavoro proprio, capito? Che c'ha una misera pensione di 500 euro. E lui sta lì a Santa Maria e fa 120, 130, anche 150 euro al giorno. Certi giorni ne va di 30, ne va di 40, ne va di 50, capito? Però la giornata esce. Esce sì, io mi ricordo quando lavoravo da Nizza, ho lavorato anche per una cooperativa al mercato all'ingrosso lì, a Presaneta, a Mondale, la gente che già ci vengo. E andati a da mezzanotte, pensamente alle 4 mondavo, poi alle 6, alle 7 zicchio a farmi vedere le consegne che caricavo da lì. Cazzo erano un bel di nami. Grazie. Ehi. Allora, ho smontato una tapparella, ok? Di una finestra, non una porta finestra, una finestra. Praticamente cioè, mangiata dal sole, piegata, l'ho rifatta tutta nuova, secche nuove, corda nuova. Secondo te quanto li potevo prendere in mano d'opera? Dai, sentiamo, visto che tu le facevi. Cioè praticamente ti ho messa tutta da zero, tutto, ne giù un po' di tutto, giù buca nuova. Quanto li potevo prendere secondo te di mano d'opera? 120 euro, ma l'ha comprata lei o ve l'hai comprata da due? A che ce l'hai comprata da due è poco 120. No, l'ha comprata lei, l'ha comprata lei. 100 euro, tranquilli. Guarda che quando lavoravo per conto del mio principale, prendeva anche 180, solo andare a fare le riparazioni così. Vabbè, sono amici questi qua, là. Poi mi fanno fare altri lavori, 60 euro li ho preso. Però mi ha aiutato anche il ragazzo, là. Mi ha aiutato a passarmi le stecche, io me le ho tutte segnate, tagliate, però tutta costruita, diciamo, là. Ecco, 38 stecche, poi ho buttata dentro, mi ho messo, prima ho messo la corda nuova, perché era mezzo rotta. Comunque è stato un bel lavoro, è bello, va. Sono stato, guarda, anch'io mi sono meravigliato. Quei lavori sono buoni, se lo vuoi quando me ne escono, te lo dico se li fai, te lo dico a te, vai tu e li fai. C'era un periodo quando ho smesso di lavorare, cazzo, gli adi mi borbandavano. E allora li passava un amico mio, stesso che abita lì al monte, Antonio. E andava Antonio se li faceva a lui. Lì, aveva tanti clienti, la giornata, tutti i clienti che va via lì, tutti a quello li avevo dati, quei clienti. Ed erano un bel. Adesso devo andare a piazzargli l'antenna, diciamo una casa vecchiotta, là. Poi vuole un punto luce, cioè non un punto luce, devo mettere una presa, prendo la corrente da su, una canaletta. E poi passare un capo d'antenna perché si devono mettere un televisore in soggiorno col braccio, poi piazzargli l'antenna sul tetto nuova perché vede pochi canali e niente, dai, un po' ho fatto quel prezzo lì, poi mi devo fare altri lavori e vabbè, poi cosa fai? Meglio ubiquità che abbaità di zia Ghito, dai. Quello sì, se ti fa fare altri lavori a non attrozzare la gente, se no davvero ti chiamano i più capi. Se sai che ti chiama per fare altri lavori, io la gente che mi chiamava per fare altri lavori, mica gli strozzavo. Non monopolizziamo, avanti qua. C'è anche Emanuele, vai Emanuele. Tranquillo, rimango anche Rex, riprendi qua. Va bene. E Lu, già ce n'è lavori da fare, già ce n'è. È che l'amministratore che abbiamo adesso non fa fare niente se, senza fattura, capito? Perché se no si incazza. Ma lo sai quanta gente c'è anche stamattina di sabato? Era un idraulico. Uno era. Stava cambiando un paio di scaldabagni perché sono scoppiati, capito? Si va da 50 euro a scaldabagni, ma cosa beh, ci provo sia gratis. E sono 100 euro di sabato, non si rampino. Però l'ha mandato l'amministratore, capito? Io adesso se sento lavori così, di avvolgibili, di queste cose, ti avviso e te le fai qua. Perché ce n'è sono un bel di persone grandi, anziane, capito? Che chiamano per fare queste cose. Beh, se fai così te la fa la giornata, no? Ma io guarda, non ho problemi anche ad alzarmi presto. Che problemi? Che se uno vuole che ne travagliare, io alla fine non. Guarda, adesso ho questi lavoretti da fare, lavorettini così, non sono lavoretti grossi. Se no me ne vado a lumache. E allora, lumache, asparagi, di tutto, di tutto. No, io la verità da poco non lo sapevo. È capitato la signora di sopra, siccome io non ne faccio perché non perché non li so fare, ma perché mi fa male la schiena, mi posso far male, eccetera. Ho questo problema e l'ortopedico mi ha detto di starmene tranquillo e sereno. Infatti prima andavo nei cantieri a mio cognato a dargli una mano a fare, adesso sto facendo solo ufficio, commissioni d'ufficio e boh, perché non posso fare più niente. Però c'era una signora, appunto lì si è rotta la corda ravvolgibile e mi ha chiamato, mi ha detto claro, non è che, no, ho detto va, volentieri, Marili, ho detto, però non ce la faccio. E a chi posso chiedermi? Prova a citofonare a Nicola, se te lo fa, gliel'ha fatta quello del piano di sopra, capito? Gliel'ha fatta lui, se lo sapevo ti avrei chiamato a te. Vabbè, non è un problema. È che non c'ho il mezzo sempre, capito? Devo organizzare con Marina, lui se ne va, entriamo al lavoro, così c'ho la macchina. Sono un casino qua. Ma vabbè, dai, già qualcosina, dai. No, non sono tanti, però... Molte volte non c'è niente, pazienza, già vuoi qua. E così, adesso c'ho, come si chiama, biancare una cameretta, sempre una cameretta piccolissima, un buco, ma cosa più buono, un'oretta, 2 ore, qualcosina, cla. Ehi, Lu, già ti conosco, Sovane, non mulla, quello che esce prendi, io se sento qualcosa qua in condominio... Te lo faccio fare, capito? Non lo sapevo, pensavo facevi solo lavori elettronici, dai, computer, queste cose. A proposito del computer, Lu, io lo voglio dare quel computer grande, perché intanto non ne uso, completo, di tutto, e voglio prendere uno piccolino, capito? Un portatile piccolino, anche vecchio, insomma, che funzioni, giusto per guardare le mail, per entrarmi intanto su eBay. Perché intanto ne lo tolgo da qua, ne lo tolgo perché ne tolgo tutto, la scrivania, lascio solo le radio e boh, e metto un divanetto. Ecco, ci sono i gruppi, mettilo nei gruppi, lo vendi subito, fai le foto, se vuoi gli diamo un'incipaccata, nel senso lo resettiamo e così è a zero, non c'è più niente, e glielo dai già pronto, dovresti fargli le foto e poi mettono nei gruppi, lo vendi, se vedi qualcuno che ti interessa per qualche ufficio se lo prende. E quello lì è della Lenovo, nuovo, già lo sai. Sì, quando tanto ci dobbiamo vedere la prossima settimana. Appena sei libero te lo do e lo resetti tutto. Teniamo già pronto, così lo stacco. E boh, mi sto arrangiando col telefonino. Che voglio prendere un tablet o qualcosa di piccolo che non sia ingombrante, non si usano più questi computer così grandi a casa, capito? Mi prende spazio e basta, non so mai dove metterlo, adesso ho dovuto prendere un'altra base, un'altra per metterlo da un'altra parte, perché prima era sempre a fianco alle radio, ma allora lo usavo di più perché c'era il programma appunto del cluster, eccetera. Adesso non c'è più niente, quindi non me ne porto proprio nulla. Quindi te lo do, lo resetti, lo pulisci tutto e lo arrangi tu, lo amai, usami una futi, lo vendi tu, te lo do a te, te lo do tutto, un monitor, tastiera, tutto, come me l'hai dato tu. Ma mi hai dato l'unità, il monitor, la tastiera, te lo do, resetti tutto, pulisci tutto e lo vendi, non me la futi nulla, ma usami una futi. Vabbè, dai. Ci organizziamo, appena sono libero questa settimana sono un po' impegnato, certo lunedì vado a fare quel lavoro lì, poi ho il cagnolino che lo devo portare, mi ruba tutta la mattinata, lo devo portare a fare il vaccino e tutte cose, poi non lo so, mercoledì, giovedì, ho un telefono da chiudere anche, lo devo consegnare, sono un po' impegnato, sono, un po'. Sì, ma non ve ne impegno i chivi, quando ti raggiungo te lo do, lo metti a una parte, quando c'hai tempo te lo rigetti, lo prepari, ti fai tu le foto, fai tutto tu, a me non me ne frega niente, non me ne affutti nulla, capito? E allo stesso tempo mi cerchi uno piccolino, stracobaratto, giusto da usare così, niente di che. A voglia portarti, va, già si trova, bisogna... Cioè magari lo trovi tu, mi chiami, così lo controlliamo e vediamo un po' se è buono, se è fluido, ecco. E se no, secondo quanto lo paghi, si deve fare la formattazione. Beh, forse è meglio che si fa, almeno sei più tranquillo e sei sicuro che l'hai fatto. Cioè si fa una piccola revisione e via. Tu, io non me ne intendo, lo sai, io do il grande a te... E cerchi anche il piccolo, ti arrangi tu come che sia per te, già lo c'è il problema non viene. Da un momento lo trovi, dice Crani, ho trovato uno tot, pronti, tieni i soldi, compralo. Tu devi decidere, io cosa decido, cosa non gioco, cosa comprare io. Poi tu c'hai ragione, è vero. Avanti, grazie. Infatti, no, io c'è una della scrivania, me la giù venduta, tu compri il servizio che ti mando, lo mattessi. C'ho solo il portatile, mi uso quello e poi c'ho il tablet piccolino. E sono 9 tutti e due, però ogni tanto quando mi attaccavo uso uno o l'altro, capito? Ah, sono comodi, da perché mi pigliava spazio, anche non è che era grande grande la scrivania, però era un imbarazzo. Non mi piaceva neanche starci al salone, capi? E allora non me la devo in tutto, va? No, grazie, io ho sempre fatto tutto Luca su quella parte lì. Io non ho mai fatto nulla senza far controllare a lui o senza decidere lui. Lo do a lui perché me l'ha fatto comprare lui ed è nuovo, funziona perfettamente, capito? Ed è un bel computer della Lenovo. Tutto originale, tastiera, tutto. Lo do a lui, si arrangia lui, lo vende lui e me ne prende un altro portatile. Perché io mi fido di lui, cosa ne gioco io? Se la vuoi mi butti, me la attacca al culo. Natalie! Oh yeah! Ascoltando sei! Come? Se stai ascoltando! Ehi! Tappa del rosmetro, vai Lugarie! Io mi assento qua, dai, vado a darmi una sciacquata a Gugliup. Ci sentiamo dopo, dai, rimane acceso qua, sennò poi si fa tardi anche. Vabbè, dobbiamo cenare qua, però me la posso con calma. Ehi, Alun, dai, buona doccia, saluta mia Marina, poi già ci aggiorniamo. Fatti questi lavori, queste cose, fretta non agio, intanto è sempre chi, il tuo lardo, quindi appena hai, te lo do, te lo tu, non me ne affutti nulla a me. Avanti, grazie. Ehi, buona doccia a lui. Infatti anche il mio, siccome non mi piace a me rimane in salone, lo usavo anche poco, quello del salone. Poi mi ho preso quello della banca e me lo uso sul tavolo. Quando andare finito, lo chiudo e me lo metto su. Sulla mensola che c'ho nel ripostiglio dove c'ho la radio, le ho messe tutte lì. E quando c'ho la disposizione, senza andare in salone, fai versi, te lo fai pure. E poi, se guardi su compra e vendita, vieni ogni a dimmi, nel giorno vendente. Grazie, ma libro sì, ci viene la famiglia schiena. No, sono solo, mi hanno lasciato solo con i bisogni e la tartaruga, che non so come un imbarazzo si è acquata. Pazienza, la me la lavo da solo. Prendi per le spalle lo spazzolone e la fare in terra, chi su funziona bene? Tu chi su tratti? No, ieri mi ha comprato quell'affare che va sui maneggi. A chi raggiamo sempre, no? Mi ripreava il. A rimane mi ne giunta, con chi c'ha la striscia lunga, sarà 30 centimetri, vado i maneggi, i saponi quelli e ti freghi con quello, hai compreso? Hai compreso, Claudio, vabbè, dai. Rimango in ascolto, a dopo. No, no, io tratto lo moccio filè da Lu. È un bel... è morbido, fa impressa. No, che ci mi ha comparato? C'ha la spugnetta, tipo la sua mano, va? E poi per l'altro pezzo che è frigagnoso, pare carta vetrata. Cosa cazzo è sta cosa? No, io tratto il suo moccio filè da Grazia. Con la manica corta, ho capito. Mi imprussata da reddo e si appoggia. E beh, bombolo. Oh, Claudio, io la doccia una volta alla settimana, se no mi rovino la pelle. Signor Pia. Allora, non ti conosco. Tre voci alla ditta, vai. Sì, non esagerava, dai. Una volta, una stamattina a casa della mamma e una stasera, dai. Dipende, però non... qua dipende. Se non sudo, cioè, se non... se faccio la doccia, magari sto nei punti... se sto sotto al sole sono fregato, allora sì, altrimenti no, claro, non c'è bisogno. Occhio a te, insomma, Antù. Oi, Natalino. E beh, ciao, Antù. Io che passo di l'aereo, intendi, lo senti, Claudio? Già lo sento, già lo sento. Ci hanno in di l'aria, buro, ma pure quasi piove. Va bene, Lugarie, va bene. Lasciamo perdere, meglio usarla l'acqua, sennò poi è un casino. Avanti, Antù. No, oh, quella è il motore di lavatrice, grazie, è finita. È meglio trattare la lavatrice, va. Ora poi, come piango. Chissà di mamma va a Gustini, tra compare giù l'uva, l'ho pagata quasi 400 euro, e se la giù lampata. No, questa l'hai ballata a me moglie, e quella l'auto che ci ha staccato un piumone più pesante, più quando si è zuppato leva, bisognava di più, e mi ha sballato il cuscinetto. Non bisogna mai caricare la lavatrice così. Vabbè, dipende da quanti chili è. Ad esempio la mia è da 10 kg, mia moglie ne carica sempre 7-8, certo non la puoi caricare al massimo. Da 8 kg era questa con l'oblò grande, ma non è avanti, appena comparata la via. Ma che sta cosa della vende la patrice, cattivi la patta gira, e se ci porti un piumore, tu sei pura di capo, e infatti me l'ha rovinata. Beh, il piumone è un bel pesante, poi quando è bagnato ancora di più. No, mia moglie più di 7-8 kg non carica, 6 kg. Però la mia era 10, è enorme. È un Index, l'ultimo modello, tutta digitale, da 10 kg. L'abbiamo comprata l'anno scorso, nuova, aveva più dei anni, la vecchia. E funzionava, è rumorosa ma funzionava. Infatti l'ho portata in campagna. Capito, mi lavava la roba da lavoro, mia moglie con quella lì. Va bene ragazzi, dai, io mi allontano che sono già le 7:10 quasi e così mi preparo, mi sistemo il cane perché poi ci abbiamo una bella pizzata stasera, se no poi si fa tardi, dai. Ci sentiamo dopo se ci siete, se no ritenetevi salutati, ok? Arrivo! Arrivi? Sì, ok, anche io qui là che devo fare cosa. Ce la risentiamo, a domani, salutoni a tutti, ciao! Ciao, ciao, ciao, grazie. Arrivi, Anto, dove? A magna, a magna. Sì, già ne vi date a me. sto scherzando. Ah, il problema c'è. Mio genero, stasera, dice mia figlia a riposo, è uscita alle 3, alle 2, poverina, da stamattina alle 6, che era di apertura, quindi si è riposata, adesso sono usciti. A farci un giro, ma detto, noi siamo qui verso le 8, rientriamo e ci facciamo una pizzata. Va bene, allora esetta a te. E quindi adesso mi sistemo il cane, così quando arrivano loro siamo già a posto, vai. Ci sentiamo a tu. Ciao a tutti, belli e brutti. A dopo se coincide, ciao. Ciao, ciao Cla, ci sentiamo alle prossimine. Avanti Lu. Andiamo a farci la doccia, Luca. Ah, ok. Ma per caso in quel bar di via Roma lavora, quella all'inizio? Chi? Mia figlia? Mi pare di vederla lì. Sì, sì. È lì, è lì. No, un coso, quello siciliano, scassa, non mi ricordo. Cavolo, non mi viene adesso, con Enzo. No, qui ci sono quattro soci, c'è anche mia figlia in mezzo. Sono tre maschi più mia figlia, è un bar nuovo che è stato aperto, stato inaugurato subito dopo il Covid, dai. Capito? Scappa, ma ci lavora anche un uomo però. Un uomo, un ragazzo quanto è mia figlia, ma sono dipendenti quello, ci lavora un ragazzo e un'altra ragazza. Ah capo, allora non è quello che stavo dicendo io. No, questo è nuovo, è all'angolo proprio di fronte al tabacchino di Piazza d'Italia. Ehi, ha giù compreso, care. Si chiamava prima, non lo so, vabbè, l'hanno tutto buttato giù e rifatto tutto a nuovo. Capito? Ed è lì mia figlia. Va bene, Anto, dai, ci sentiamo, che vado a sistemarmi. A frappè. Eia, ciao. Ruele, chi è che chiama? Domani tu eri? Emanuele, sto chiamando, ma non risponde. Però si è dormito, visto. Può sì. No, ma era proprio dentro con me, un po' di tempo fa, in 27, poi ha parlato qua, e poi non l'ho più sentito, Emanuele, attento, Gingo. Attenzione gigante. Maria. Pronti? Ma mi senti? Certo Gio Maria, ti sento. Sono sul 23 Gio Maria. Ok, buonasera comunque. Quale sei? Quello là? Ciao. Sì, con quello là siamo, sì. Va benissimo. C'è Tore, c'è sul 23. Ti sento bene, Va benissimo. Manuele c'era poco fa, si è assentato, è sparito, anzi pensavo che era con te. No, io ho acceso, sono con Tore sul 23, adesso tu ci ha chiamato a Bacchiso se magari è sul PMR, invece è negativo, non è ancora entrato, magari sta facendo qualcosa. Bene, come va? Bene, sì? Benissimo, Giovanni, benissimo. Puoi passare sul 23, Giovanni, che c'è Tore? Un secondo, Mari. Ok, sul 23 sono, vai. Che Mari? Eccomi qua. Ciao, Lu. Ciao, dicendo, Mari. Luca. Che Mari, dormitoci. No, col cacca so. Attento, Rosmarino. Rosmarino è mezzo dritto, la macchina è andata a 23. Ancora tu senti, sa. Oi no che ho 23, andiamo, catta. Andiamo, bene, andiamo, brecchite, die. Da, sono brecchità, da ribassa. Domani. Cosa stai combinando? Tore sta arrivando qua sul PMR, là. Sono Tore, chi è Luca, buon entrato, buonasera. Tutto ok, Giovanni, tutto ok? Meglio così, Mari, meglio così. Infatti, io stavo rispondere al telefono e mi sono dovuto assentare. Bene, riprendi lui. Ehi, avete un po', è ora di cena. Andiamo a fare una passeggiata. E poi domani, se tempo lo permette, andiamo al mare. Ma mi senti, Marino? Ma posso, vabbè. Vabbè, ma da pronti? Sì, ha messo acqua. Ha messo acqua, Luca, ciao. Meglio così, c'è posto tu, va là niente male, a casa. Oh, vabbè, da quando te ne vedi, vabbè, di là di come ti è, e la prendi come viene. Luca, un tanto mi stai sparendo, non ti muovere da dove sei seduto. Lasciala fare l'acqua che fa bene adesso, l'acqua ci vuole adesso, che rinfresca il cuore, cara. No, Giovanni, domani non deve piovere, devo uscire fuori sassa, se no mi incasino. Lunedì deve fare un po' di acqua, lunedì la notte, deve fare la mattina e ci fa lavorare almeno, dai. Luca, avanti. Tanto serve l'acqua, Mari, serve, ormai il caldo l'ha fatto, sa anche troppo questo caldo, cioè sono in terrazzo, sono i pantaloncini, a petto nudo e c'è caldo. Non so, già ti vedo qua, sì, ti sto controllando da lontano, ho la telecamera da lontano che ti sta controllando, stanno dei satelliti, ti vedo, sei in piazza Pelo, in piazza Ettore, giusto? Bravo, bravo. Ok, ti vedo da lontano, tu hai detto, guarda che c'è Luca là, in casa della ragazza col pentoma in terrazzino, vero Tom? Ah, già compreso, cosa hai detto? Non fammi hai detto che hai visto a Luca in terrazzino col pentoma, vero Te ce lo sa, da secondati senza vederlo. Buon gustaglio, sì, avanti Giovanni. A te in base questo attore come ha risposto, a rovescio l'ha risposto, uomo, Mari. Come al solito, Tore è stato così. Bene, Mela, vediamo se c'è un bacchisio, gigante. Ah, gigante, oggi non è a voi, amico. Fiorellino, Gio Mari, sentito? L'ho sentito magari un'oretta fa, che era su 20... era qua. C'era Claudio, c'era Natalino, c'era... E chi altro c'era? Ah, c'era Graziano. Ma si è assentato e non è rientrato più, boh. E adesso qualche fiorellino, fiorellana. Signora Cinquetti, mi sentite? Allora, saluti, Inchanté, fiorellino. Stanotte sei scena al ghero, Inchanté, avanti, Tore. Sì. So che era Drodestina da rimanere a sera, non so che ce l'è passato, ma a me pare che non lo so come ti sarà. Sta facendo ancora cura, ma boh, non lo so, speriamo. Mercoledì, se non sbaglio, c'era una visita, speriamo bene, dai. Avanti Luca. Mi sentite? Avanti, buonasera, ben entrato. Buonasera, sono Giuliana Cinquetti. No, ho capito bene, 25enne cosa? No, Giuliana Cinquetti, mi sentite? Sì, che ti senti? Sei bombolo. Bombolotto, ok, ben entrato, buonasera anche a lei. Adesso ti mando a Gio Maria, avanti Gio Maria per bombolo. Ciao, buonasera, ben risentito. Prima ti sentivo bene, adesso ti sento un po' lontanino però, però, cosa ci vuoi fare? Comunque l'importante è che si riesca a capire. Avvio, tutto bene tu? Cappa, tutto bene, sto bene. Ma non sono più a Latte Dolce, non abito più lì. Ma io non lo sapevo, non lo sapevo, dice più, chi me l'ha detto? Me l'ha detto? Ah, Manuele me l'ha detto. Dice no, dice che abita in Tapposo, così così. Non lo sapevo, Anto, tutto lì, va bene. Già era già ora, vai, il tempo tuo, per cui è fatto bene, vai. Tore, era ora sì, era ora, ognuno deve stare a casa sua, non posso avere rotture di palle. Eia, Tore! Hello, ciao bombolo. Buonasera anche a lei. Comunque ha messo 10% di pioggia, perciò non è qua. Pioggia ha messo domani, tu puoi fare ugualmente il bagno, tanto l'acqua ti fa, sei già in acqua, visto che quella ti rinfresca, tu sei sempre in caldo. No, Giovanni, sono persone, a me poco mi piace. Vabbè, sicuro che non se ne faccia qua, magari qualche piovigina così passerà, e magari la parte di Urbia, quella zona dovrebbe fare parecchio, però vediamo un po' la situazione com'è. Sì. Ok, bene, Maria, te vai. Io ho sentito deve fare verso la zona di Nuvolo, io devo scendere verso Nuvolo domani, speriamo che non faccia il casotto, dai. Bene, bene, Bombo, dove sei? In questo vicolo, se mi sbaglio, no? Cappa, in quella zona abito. Sì, in quella zona abito. Mi adesso sto vedendo le antenne, sono nella finestrella sul tetto per modulare, almeno esco più forte. Se vuoi uscire più forte, poi più, ce la fai, ti prendi una sedia, ti metti sopra la sedia e metti un pacco di giornali nella Nuova Sardegna, e almeno sei più forte, hai capito? Esci più in alto. Avanti, Luca. Tu mi senti? Certo che ti sento. Vengo pure lì devo, Rinocchio, una parabola e quattro antenne. No, forse antenne TV, tu c'è la mia del baracchino. Ehi, Ada, come ti senti qua a tratti? Ehi, avanti Gio Mari. Dai, io chiudo che sono terminato di vedere un film e per cui ne approfitto, dai. Buonasera, ci sentiamo. Alle prossime, o domani se coincide. Ciao Mari, saluto di casa. Ciao a Chiattore e Antonio. Ok, Antonio, riprendi tu, dai. Ti ascolto per il finale, dopo chiudo, dai, buon proseguimento, grazie alla chiacchieratina, anche se breve, fa sempre piacere. K, salutone Gio Maria, ce la risentiamo le prossime, avanti Marino. Benissimo, ciao Gio Maria, ben sentito, buonasera, a domani sei con Cile, saluto in casa, avanti Tore. Ciao Gio Maria, stammi bene, ci risentiamo domani se va tutto bene, ok. Riprendetela Luca. Ehi, ciao Giovanni, saluto in casa, dai. Buona cena e buon tutto, a domani. Ciao, ciao. Avanti, Boburi. Cappa. E quindi è così, mi metto sul letto e poi mi metto sopra la finestrella a modulare, perché vedo che esce un po' meglio. Capito? Già mi sento lo stesso anche dentro, però preferisco così. Apro la finestrella e via, il modulo. Però se piove non modulo. Allora io ti sento bene, io sono ottavo, vai tu. Sono ottavo e ti, come recensione ottima, bella pulita, va benissimo, avanti Tore. Infatti, già è pulita, sente bene, ha voglia. E già non credo, io sono in andata la gubbiscuria, con un antennino di gomma. Aspetta, via da te. Riprendetela Mari. Va benissimo, dai. Anda me, anda tu. Vediamo se faccio una chiamata al signor Gigante. Si nascolta. Attento Gigante. Attenzione Bacchisio. E a chi Gigante? Gigante, oggi non ho voglia di entrare. Oggi ho c'è gente, o sta lavorando. Avanti Luca. Ehi, tra un po' la di cena, che ne so, noi 10 minuti ancora. Oggi abbiamo pizza, oggi pizza, vai. Poi domani mattina ci abbiamo spezzatino di gambe, davanti a tu. Ah, oggi vi mangiate la pizza? Ciao sì pizza, domani spezzatino di gambe. Già è buono, già è buono. Andate giù un po' sul cellulare. Avanti Tore. Andiamo a cercare il cellulare. Ok, io ne approfitto. Ciao Bombolo, ciao Luca e ciao Marino. Ci risentiamo domani se va tutto bene. Ok, ciao a tutti. Statemi bene, buona cena a tutti quanti. Ciao Tore. Marino, avanti. Ciao, ti ho ben sentito, buona cena anche per te. A domani sei concilia, dai. Anch'io se 10 minuti poi chiudo che c'è un mio nipote che mi sta bussando il vetro. Avanti a tu. Ma sta chiedendo qualcuno? Tore ha chiuso Antu, Tore. Cappa, salutoni Tore. Ha già salvato, ha messo già Lucchetto Tore, avanti Lucca. Sì, io stavolta a cena ho lenticchie a ripieno carne macinata e piselli a ripieno con carne macinata. Anzi no, i piselli sono ripieni a coso, a calamari. Buona rete, sono Luca, buona rete, che avevo crebbia. Prepara un bel panino, preparano, dai. Allora. Tu mi mangiate le lenticchie a ripieno carne macinata? No, con l'acciughe l'ho mangiato. Due. Cosa sto dicendo? No. Ma quei piselli ripieni, buona rete, so. Ma sicuro, Gesù. Perché? Io non ho mai mangiato questa roba qua. Marina li fa. Con la siringa, no? Riempie di carne macinata. Cazzo, è tutta quanta strana la situazione. Marì. Buona rete, Mi luta, ti mandato la fotografia per farti vedere un disciocco. Ma a me? Eia, ti ho mandato la foto. E Anto, non è arrivato nulla, no? Io non ce l'ho il tuo numero, Mari. E io ricevo solo per appuntamento, Anto, peggio per te. Fatto dare da Lucca, su WhatsApp, fatto dare, poi me lo mandi, dai. Cappa, ma c'hai WhatsApp? Io sì. Lucca già ce l'ha il mio, dai. Lo dai lui, dopo lui lo passa a me. Cappa, cappa, non c'è problema, dai. Allora, me lo manda Luca. Hai visto lui dove modulo io, con l'antennino? Sì, ho già visto. Perché esco un po' più bene, no? Purtroppo non ho l'antenna per questa banda qua, se no me l'avrei piazzata nel palo lì. E non avrei avuto nessun tipo di problema. Comunque vedi tutto Sassari, vedi? Anto, beh, da reddo, No, tutto Sassari, no, perché dovrei mettermi la scala per mettermi a vedere tutto Sassari. Però se mi giro, aspetta, se mi giro vedo il grattacielo e la chiesa del Duomo. E già è bello, là, bellissimo comunque. Cappa. Cazzo, vedo la chiesa qua, del Duomo. C'ho il campanile davanti e va giù pure una cagliesa, ogni aggazzino. Ti scende da mangiare, no? Oh, io già. Mari, guarda, te l'ho mandato quello di Antonio. Sto guardando, appunto io stavo dicendo che me ne metto sassa e gira, bellissimo, va bene. E ti credo, cazzo. Mi, un campanile, mi, ti ho mandato a va. Dai. Ehi, che anni fa? Se no io che venite su pure via Golibani, è che ha chiuso il panificio, se no senti su pure via Golibani. Ma Santa Maria è? Sono dietro che ha chiuso, esatto. Tu, Santa Maria è quella? No, qui c'è un Duomo, non è Santa Maria. Ah, è vero, il Duomo. Avvenamente di voi un panificio toscano? Un attimo. L'ubanificio? Toscano, ve lo ricordate? No. Calvia. No, il panificio toscano, anni fa. Sicuramente è Marino, sì. Il figlio toscano, sì, me lo ricordo. Ehi, io ho un vicino in Chivi. Ma tu sei sopra. Già passo e ti butto un po' di mondezza, ti butto domani mattina, che faccio servizio domani mattina. Ok, ne approfitto che mi stanno chiamando, va. Ciao Anto, ben sentito, domani si concilia, ciao Luca, lo stesso. Domani si concilia, buonasera a tutti e per me QRT. Saluto tutti gli ascoltoni, avanti Luca. Ehi, ciao Mari, saluto, alla prossima, va. Ciao Anto, chiudo pure io, tanto c'ho la batteria anche scarica. Quando vado a cenare, poi si vedrà cosa fare. Ciao Anto, riprendi. Cappa, dai, salutoni, ci risentiamo le prossime minute, salutoni Marino. Ciao a tu, ciao, domani, ciao. Ciao.